investiamo molto sullo sviluppo ecosostenibile della città, ovvero sulla creazione di parchi verdi attrezzati, fermo restando che come verde, come sistema verde è una delle città più avanti nelle classifiche nazionali. Dopodiché tutta una grande azione sul risparmio energetico con nuove tecnologie, sul risparmio anche dell'acqua, con introdurre dei sistemi che per esempio prevedano l'utilizzo di acque naturali non potabili per il verde urbano. Sulle energie rinnovabili? Prevalentemente le energie che utilizziamo per il riscaldamento è una rete del gas molto completa e forse una delle prime in Sardegna. Poi ci stiamo orientando per il fotovoltaico, prevalentemente il fotovoltaico su tutte le nuove costruzioni. Nel regolamento edilizio abbiamo inserito il fotovoltaico.